Adesso cosa resta della nostra età? Se togli la rivolta, la rabbia, la musica, la fame, la voglia di scrivere da capo una storia risolta. Chitarra, me lo chiedi, siamo dentro un bar. Sei davvero stanca, hai perso gli occhi, ma banca. Ottimo, contratto nuovo come protesi. Eri più bella quando eri di nessuno, eri più bella quando eri gratis. Eri più bella quando rischiavi, eri più bella, eri più bella come ipotesi. Non chiedevi altro la vita, tu ce ne sudanti, quel polso tremanti, le ginocchia sporche, una luce negli occhi. Non è piangere, non è urlare, ridere forte, non spaccare i denti, rompere le cose finché ne hai, morire di vino e soste leggere, a pochi passi dalla fine, ubriacare le paure e risorgere tra notici, giorno dopo in un albergo, con una vasca di squali nel cervello e un'erica che ti solleva il petto, stupidi come l'amore, salti come l'incoscienza senza più pensieri. Bruciare sempre e spegnersi mai.